E allora, in attesa della serata di domani, siamo al telefono anche con Filippo Miraglia dell'Arci Nazionale, che saluto. Ciao Filippo. Ciao, ciao. Prima con Rossella abbiamo un po' presentato quella che sarà la serata e quali sono i presupposti che hanno portato a indirla, anche i presupposti locali. Con te vorrei un attimo ragionare anche sul clima che si respira in Italia, immagino non solo a Bologna, e ti volevo chiedere, secondo te, quali sono le ragioni che hanno prodotto questo clima? Sì, la vicenda del Benassi non è certamente una sorpresa per noi, perché l'aria che tira in tutta Italia è questa, e d'altro canto non potrebbe essere diversamente, perché da un lato abbiamo io lo chiamerei un imprenditore politico dell'odio, del razzismo, che Salvini, con alcuni satelliti più o meno grossi, per così dire, che in questi anni hanno agito indisturbati facendo propaganda e lavorando sulla cultura degli italiani, che si è oramai totalmente spostata a destra, ragione per cui i principi della nostra Costituzione, quelli diciamo ancora prima, se vogliamo, religiosi, e quelli della solidarietà, della libertà, dei diritti, della Rivoluzione Francese, insomma, no? Che è un po' l'origine delle democrazie occidentali, sono stati essenzialmente piano piano distrutti, frantumati, ovviamente per interessi politici, cioè per ottenere consenso. E dall'altro lato non c'è stata una proposta alternativa, manca quello che diciamo da tanto tempo, un imprenditore politico dei diritti, cioè qualcuno che sia disposto a scegliere un piano diverso che quello dei diritti, a investire su quello in maniera determinante e non solo parzialmente e a tempo perso, ecco, no? Purtroppo pensare che diciamo affrontare il tema della povertà, della divisione che c'è nella nostra società, dell'individualismo, dell'egoismo che appunto ha vinto, ragione per cui noi constatiamo che c'è un'egemonia della destra in questo paese, come in Europa, forse in tutto l'Occidente, semplicemente facendo un'analisi delle ragioni per cui negli ultimi anni la ricchezza si è sempre più spostata nelle mani di pochi e i poveri sono sempre di più, quindi diciamo con un'analisi del modello di sviluppo, di come viene governata l'economia e il mondo del lavoro in questo paese, in Europa e nel mondo occidentale per l'appunto, non è sufficiente, perché poi le persone che subiscono le conseguenze della crisi in realtà hanno davanti ai loro occhi un capro espiatorio che gli viene offerto quotidianamente, come diciamo noi, a reti unificate senza contraddittorio, e quindi non possono che scegliere quel terreno, cioè quella spiegazione che è la spiegazione più semplice, e se le persone sono in difficoltà cercano una spiegazione semplice, e quindi dargli una spiegazione, un'analisi giusta, corretta delle ragioni appunto delle diseguaglianze, della povertà, non serve a nulla se non c'è allo stesso tempo un attacco, ripeto, che deve essere frontale e stabile, con grande determinazione, sullo stesso piano che quello dei diritti, perché alla fine le persone scelgono chi dà risposte più semplici e indica un facile capro espiatorio. E purtroppo da questa spiegazione non sono immuni non è immune, come si dimostra in tutta Europa, purtroppo, neanche il popolo della sinistra, quelle persone che per tanti anni hanno militato magari in partiti di sinistra, che sono, come potrei dire, storicamente e intrinsecamente anche legati alla sinistra, perché se non c'è contraddittorio, se alla fine la voce alternativa a quella dei Salvini, e io mi permetto di dire ai tanti grilli parlanti della sinistra di governo che in questi anni hanno seguito la destra sul suo terreno, facendogli essenzialmente, aprendogli la strada, penso a Minniti con quello che ha fatto durante l'anno di Ministero dell'Interno in cui lui è stato capo del Viminale, è evidente che non essendoci alternativa, alla fine le persone sono quasi obbligati a quel tipo di scelta, e questa è ovviamente un buco grave nella nostra democrazia, perché il fatto che molte persone abbiano come proprio punto di riferimento culturale un neofascista come Salvini, perché Salvini non possiamo dire che è soltanto un populista, è uno che propone delle soluzioni che sono contro la vita, diciamo per la morte, per la violenza, e tante persone continuano e continueranno a morire per le scelte che lui sta facendo. Questo fatto ovviamente non avrà conseguenze, non ha conseguenze solo sulla vita di quei migranti che non riescono a mettersi in salvo, avrà conseguenze purtroppo anche nelle relazioni tra le persone che vivono in Italia, avrà conseguenze anche in generale sulla nostra democrazia. Prendo spunto da una cosa che dicevi, in particolare per quanto riguarda le politiche del centro-sinistra degli ultimi anni, utilizzando un vecchio slogan, potremmo dire dunque che oggi per essere fedeli alla linea prima bisogna chiarire qual è la linea, perché se si insegue la destra poi vince l'originale, non la fotocopia. Sì, purtroppo noi sono tanti anni che assistiamo a questo continuo inseguimento della sinistra verso il territorio della destra, che non ha fatto altro che ampliare lo spazio politico e culturale della destra. Penso per esempio a una cosa che succede negli anni 90, negli anni 90, a questo tema della sicurezza, che qui in Emilia-Romagna, per esempio, ha visto grandi investimenti anche finanziari, politici. Sottraiamo un terreno che è quello della destra, cercando una chiave di lettura di sinistra della sicurezza. No, questa cosa non ha portato alcun risultato se non consegnare una parte dell'elettorato alla destra xenofoba e razzista, anche in regioni che storicamente in cui la destra aveva poco spazio. La stessa cosa è successo non solo in Italia, devo dire in tutta Europa. Le sinistre, quelle del mondo dei socialisti e democratici, quelli della famiglia dei socialisti e democratici nel Parlamento europeo, per intenderci, che hanno governato in tanti paesi, compresa l'Italia, negli ultimi anni, alternandosi al centrodestra, su questo terreno, che è il terreno dei diritti, hanno pensato che non dovevano lasciare spazio alla destra e quindi cercavano soluzioni un po' più attenuate, ma che comunque sceglievano il terreno della riduzione dei diritti. Penso ad esempio a una cosa molto grave che è successa l'anno scorso, cioè la Orlando Minniti è stata una scelta veramente ingiustificata e gravissima, perché la maggioranza di centrosinistra che governava prima delle elezioni di marzo ha scelto di togliere ogni possibilità per un richiedente asilo che si vede respinta la sua domanda di andare davanti a un giudice terzo, davanti quindi alla magistratura italiana, a far vedere le proprie ragioni con un avvocato che porta le carte e spiega le ragioni di chi appunto chiede asilo e si vede respinta una domanda. Non c'è da nessuna parte, è una cosa gravissima. Anche una persona che prende una multa ha diritto a due gradi di giudizio e a un avvocato che fa un dibattimento davanti al giudice. Per un richiedente asilo che si vede respinta la propria domanda davanti una commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato, non può andare davanti al giudice ordinario con il proprio avvocato, ma il giudice ordinario decide senza sentire il richiedente asilo e il suo avvocato, e poi salta l'appello perché l'appello è stato cancellato. Una cosa gravissima che urla vendetta, perché significa appunto aver cancellato le garanzie giurisdizionali per una categoria di persone deboli come sono i richiedenti asilo, e questa cosa è stata fatta da un governo di centrosinistra e non ha fatto altro, oltre a produrre un'ingiustizia, che allargare il terreno su cui poi la destra raccoglie consenso. Perché se anche un governo di centrosinistra taglia i diritti ai richiedenti asilo, è chiaro che il messaggio che mandiamo alle persone, non solo a quelle meno strumenti, ma anche a quelle che gli strumenti di analisi ce l'hanno, suggeriamo però che questi richiedenti asilo sono dei millantatori, dei profittatori, cioè aumentiamo il carico di luoghi comuni e di pregiudizi che ci sono nei confronti dei richiedenti asilo, e quindi spostiamo ulteriormente l'opinione pubblica verso destra, verso appunto chi pensa che oggi i diritti non siano più una cosa da riconoscere universalmente, ma che valgono solo per alcuni e non per altri, che c'è quindi un noi e un loro, che bisogna chiudersi nel fortino e difendersi contro i barbari che ci invadono. Insomma, queste e altre riflessioni saranno appunto sviluppate domani sera al Circolo Benassi. Io, Filippo, ti ringrazio e ci diamo appuntamento a domani. Grazie a voi. Grazie.